aspettando un giorno per poter ripartire. Intanto mi guardo intorno e non riesco a sentire che succede nel mondo e anche dentro di noi, in quella parte del mondo che abbiamo dentro di noi. Sto aspettando un giorno per poter risalire questa forte corrente, questi modi di dire negli spazi davanti, per suonare il mio piano, a volere inghiottire con le mani leggere le montagne imponenti, a riuscire a volare, a voler conquistare, continuare a sognare. Capirò quando sarà pianto e quando lacrime di gioia e libertà passerà. Soltanto un momento da quando capirò e poi non sarò più qua. D'improvviso negli occhi luce migliore, una voglia crescente di tornare a parlare e la voce più chiara. I pensieri che faccio lentamente sanno dimenticare finalmente di sentire nei fatti quella parte sbagliata, sempre stata presente, sempre. Sì, ma si può cambiare, si può cambiare, aspettando quel giorno di poter ripartire. Capirò quando sarà.